di vista la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere. Eh sì, Robert De Niro che dice sei solo chiacchiere e distintivo un po'. Student Touchable. Robert De Niro che fa, interpreta Al Capone. Ed è un solo chiacchiere e distintivo che ovviamente noi dedichiamo tutta una serie di persone, personaggi potenti o meno. Se, alle volte sono semplicemente dei servi o dei servili accondiscendenti dei potenti, che facendosi scudo appunto del loro distintivo, quindi di essere parte qualche misura di quello che viene chiamato l'establishment, la fanno da padroni, ma sono solo chiacchiere e distintivo. Eh sì, perché sono tanti anni che la sigla di 25 O'Clock è fatta così e non avevamo mai speso due parole riguardo il fatto che ci fosse questa citazione cinematografica. 22:52 minuti primi, Radio Onda Rossa. Abbiamo iniziato così, tranquilli, invece da botta da matto. Si ricomincia per questo nuovo anno radiofonico. Pensa che alle volte, dico pensa perché abbiamo ospiti, fra poco li presentiamo, anche perché è in qualche maniera il loro compleanno, quasi doppio, quasi una coincidenza di compleanno. Pensa che alle volte, dicevo, è talmente tanto tempo che si sta dietro questo mixer che stentiamo a dire 2000, 2018, 2019, perché quasi ci esce spontaneo dire 1900, vabbè. Invece il secolo breve è passato e siamo in un millennio che si prospetta molto lungo. Dicevamo 87,9 della modulazione di frequenza della banda romana laziale Radio Onda Rossa dal 1977, stavolta 1900. In pista, nell'etere, a cercare di sobbillare. Sobbillare i ribelli e ribelle qui di Roma, ma ribelle carina, eh? Ci siamo, dai, abbiamo aperto il microfono. Di chi è il compleanno oggi? Compleanno ieri era il mio, oggi è De P38. 27 P38 anni di lotte pack, disorganizzate. E perché c'è scritto 25 sul sito? Perché non siamo disorganizzati, ah, okay. E non abbiamo detto al webmaster due anni fa di cambiare la cosa. Allora, però, prima di andare con i piedi nel piatto, dobbiamo ricordare le cose più importanti per la radio, cioè che la radio è una radio autogestita, quindi che non c'ha sovvenzioni da parte, appunto, di chi c'ha chiacchiere distintivo. Ma campiamo grazie alle nostre e alle vostre, al vostro sostegno. Come si fa appunto in una radio autogestita, quindi è importantissimo che voi sottoscriviate per Radio Onda Rossa e la sosteniate in qualsiasi modo e maniera, non ultimo, dicevamo, con dei versamenti. C'è il sito della radio www.ondarossa.info, andando su sottoscrivi, sostieni, adesso non mi ricordo esattamente qual è la casella da cliccare, comunque c'è una paginetta intera in cui ci stanno tutti i riferimenti per sostenere la radio, vari modi, insomma il PayPal, i conti correnti, un sacco di roba. Quello che vi ricordiamo, perché l'abbiamo sempre fatto, il 61 80 40 01, 61 80 40 01, da intestare a radio, a cooperativa culturale laboratorio 2001, conto corrente postale 00185 via dei Volsci 56 San Lollo, Roma. Quello che vi ricordiamo ancora è appunto il sito della radio www.ondarosso.info, la casella di posta elettronica dello spazio che state ascoltando, 25 o'clock@ondarosso.info, 25 scritto al numero o'clock@ondarosso.info, la ben più importante per le vostre comunicazioni casella di posta elettronica di Radio Onda Rossa, ondarossa@ondarossa.info. E ultimo, per illuminare di rosso la redazione della radio più rossa che c'è, 06 49 17 50, il numero della radio dal 1977, pure quello. E allora, intanto che ci prepariamo con i P38, ci ascoltiamo Rose Lux. Via Rasella. in diretta, 23:02 minuti, così abbiamo solamente dato qualche accenno di questa ricorrenza che andiamo proprio a celebrare questa sera con un'uscita, stavamo appunto poi parlando proprio dei fuori onda, dei possibili supporti, di quelli un po' romantici, sì, del 7 pollici, del 45 giri, della plastica, del vinile. E però appunto dobbiamo il mangiadischi, te lo ricordi? Il mangiadischi, certamente, quello a valigetta, certo. Le prime feste, vabbè, però appunto stiamo scendendo nel romanticismo, nella malinconia. Invece no, i 38 Punk, che non hanno nessuna intenzione di fare così della nostalgia, da come già indicate sulla vostra pagina web, no? Raccontaci un po' come nasce questa idea, allora, come si sviluppa e perché oggi. Allora, l'anno scorso, ovviamente, centenario dell'Ottobre Rosso, noi andiamo un po' in giro per suonare, per ovviamente punk filosovietico, celebrare la ricorrenza e anche la prospettiva, insomma, tra iniziative del Donbass e pure semplice celebrazione. Ci troviamo a lavorare nel contempo al finale del vecchio disco, ma ci troviamo anche immersi in un'atmosfera che era quella della ricorrenza dell'ottobre, quindi tra il dover far qualcosa, perché c'è la data, però appunto questo dover far qualcosa perché c'è la data invece magari è stimolo per aprire, sì, altre discussioni, altre idee, no? Nel senso che ovviamente stai in una situazione dove non puoi non riflettere, dove, a parte il nostro impegno che continua tutt'oggi per le repubbliche popolari del Donbass, ti trovi anche a dibattere con persone con cui non avresti mai neanche dibattuto, e anche a riscoprire poi un lato estetico. E, ovviamente, per chi fa musica come forma di lotta politica, anche il lato estetico ha la sua importanza. E ci troviamo quindi a decidere di fare un singolo, una canzone che parli dell'ottobre come ricorrenza, dell'ottobre come prospettiva, ma anche di un ottobre che pian piano, mentre ci lavoriamo, noi siamo lentissimi, si sa, a fare le cose. Questo ci abbiamo messo un anno, quindi per noi un record. Traccia singola, non poteva, come dicevamo prima, in 7 pollici avresti dovuto mettere la versione musicale, diciamo, sì, perché non c'era disponibile una b-side. Noi che leggiamo la lista della spesa, no? Noi che leggiamo, sì, il lato B, sì, P38, sì, leggono le analisi del sangue. E mentre lo facciamo in questo ambiente, in questa situazione, stiamo molto in sala prove, ma discutiamo anche molto fuori. C'è anche, diciamo, un ritorno di fiamma sull'interessarci non solo da un punto di vista politico, che quello non è mai mancato, ma anche da un punto di vista estetico a quello che era l'ottobre, che comunque diede anche delle rivoluzioni culturali. Penso al costruttivismo e poi penso a quello che a me riguarda più da vicino, anche il cinema. E mentre facevamo questo pezzo, no, prendeva piano piano forma, perché poi noi non è che arriva uno, ho fatto un pezzo e si fa, noi facciamo tutto insieme, quindi uno comincia a suonare, l'altro scrive le parole, poi va un ritmo, e quindi il pezzo piano piano prende forma insieme. Vedevamo che coincideva sempre di più con le immagini che ci veniva un film che noi abbiamo amato, amiamo tantissimo. È un film che è un capolavoro, forse non tutti lo conoscono, è Ottobre. Forse un pochino lo conosciamo perché in qualche maniera per le celebrazioni dell'altro anno sono un po' riuscite fuori varie rivisitazioni, John Reds, insomma. Sì, però robe. Ottobre, diciamo che molto pochi lo conoscono, perché Ottobre comunque è un film difficile, è un film muto. Anche se per l'epoca era un film, nel vero senso della parola, rivoluzionario, tratto dal libro di John Reed, I 10 giorni che sconvolsero il mondo. Certo. È un film dove intanto c'è questa particolarità, gli Eisenstein cerca di usare il più possibile le persone vere che presero parte ai fatti tra il febbraio e l'ottobre del 17. Quindi il marinaio dell'Aurora che vedi nel film è veramente il marinaio dell'Aurora, il commissario politico è veramente il commissario politico, cioè lui dice essere più vero del vero. In più c'è pure una questione che è strettamente tecnica, che è una questione del montaggio. Gli Eisenstein inventa un tipo di montaggio che ancora oggi è usato, tant'è che, per fare un esempio, Peter Jackson fa un omaggio agli Eisenstein nel Signore degli Anelli. La battaglia del Monte Fado, quella iniziale, non è nient'altro che la sequenza rigirata della battaglia del Lago Ghiacciato di Alexander Nevsky. Quindi, per farti capire quanto è fresco, prima si partiva da un montaggio molto primitivo, molto rude, cioè finiva la sequenza, ne girava un'altra di seguito, attaccavo. Certo. L'idea di incrociare per rendere un'idea, anche ripetere la stessa sequenza. Una sorta di mixaggio quasi musicale, sì. Insomma. Tant'è che sempre in questa occasione, nella mostra Realismi Socialisti, c'era questa bellissima iniziativa di proiettare i film di Eisenstein con un'orchestra dal vivo che suonava le musiche di Prokofiev. Ora, se lo fa l'orchestra, perché non lo potremmo fare noi? E a questa domanda c'è stata la risposta, sì. Che la risposta è proprio questa roba qua. Sì, solo che l'orchestra sono bravi e ci mettono una settimana per prepararsi. Noi ci abbiamo messo un anno, perché mentre... Sì, aspetta, però diciamola tutta, ci avete messo un anno, però uno si aspetta, ci abbiamo messo un anno e abbiamo finito un mese fa. Quindi tutto pronto, tutto impacchettato per la grande data, l'ora X, che tra l'altro è un'ora fa, l'ora X è un paio d'ore fa, in sì. Cui è uscito, diciamo, sulle varie piattaforme web, sul blog ufficiale www.38punk.wordpress.com e su YouTube. Sì, vabbè, lo ripetiamo. E invece com'è andata? Invece 2 ore fa, nemmeno ieri sera siete riusciti. Che ci abbiamo rimesso mano all'ultimo per migliorare il suono delle chitarre. E infatti le chitarre sono spaziali, sono molto belle le chitarre, siamo molto contenti dei suoni che sono venuti, perché volevamo che i suoni si sposassero con quel tipo di immagine. È stato un brano costruito via via in progress con lo svolgersi delle sequenze. Ed è molto fedele al video. Ma c'avevate lì un mentre provavate, mentre io sì, no, mentre lo so a memoria quel film. Sì, no, vabbè, me lo mimavi, che facevi? Cioè, sì, c'era un video che andava proprio fisicamente da qualche parte. No, nella mia testa, nella testa degli altri, okay. Pure che li ho costretti. Composizione. Sì, insomma. Li ho costretti a vederselo. Una composizione visuale. Ma mi hanno odiato, ma ricordati quando ci fu l'occupazione all'università, mi tolsero l'appannaggio del Cineforum perché in una settimana gli propinai tutto gli Eisenstein e tutto Zigavertov, muti di 2 ore, 2 ore e mezza. Con gente che si tagliava le vene. Allora. No, gente diceva, ma stasera andavano i guardi a sgombrarci. Speravano che arrivasse la polizia. E alla fine no, il lavoro doveva essere perfetto, doveva essere perfetto sia per la realizzazione del video, che abbiamo rispettato il montaggio di Eisenstein, quindi è stato un lavoro molto difficile da questo punto di vista, sia come suoni che dovevano richiamare quelle immagini, quel colore e dare poi una nostra visione, che è una visione di luci e ombre. Ovviamente come marxisti noi siamo dei materialisti e non accettiamo l'esistenza del non perfettibile. È ovvio che in quei giorni ci fu anche violenza, violenza necessaria, violenza magari abusata, ma ci fu. Fa parte del tutto, fa parte della nostra storia e con questo noi ci dobbiamo fare pace. Volevamo mettere tutto insieme e alla fine siamo soddisfatti. Ma invece dal punto di vista vostro, appunto, questa soddisfazione, questo fatto di comunque arrivare appunto alla sintodo del perfezionismo, ovviamente non la perfezione non esiste, è qualcosa di immaginario, e domani probabilmente andresti ancora a ritoccare per aggiungere una virgola o senza dubbio. Però questa cosa qui, Ma vorrà dire, rispetto a poi alla storia punk, invece c'è l'altro aspetto, ma non starete a diventare un po' grandi? Maturi. Storici. No, maturi no. Storici, si dice storici oggi, che è più politically correct. Cioè, che vuol dire? In che senso? È un garbato eufemismo per di vecchi. Ah, ho capito, ho capito. Ah, la storica band. Storica Peter band, Peter, sì. Ok, ok. Non lo so, no, perché poi alla fine punk è un'attitudine, quindi poco ha a che vedere con la quantità di tempo che dedichi o non dedichi, certe volte anche sfacciatamente. Ci sono i finti non curati, che sono peggio del peggio. Quindi in realtà non è quello. Ci andava di fare una cosa che fosse un esperimento, e siccome poi io ci tenevo moltissimo, in questo caso gli altri mi hanno supportato molto e mi hanno sopportato, perché immagino che la conseguenza successiva, ma vedersi infinite volte Eisenstein, certo, è pesante, sì. Poi lucidi, dovete, ma non devi bere, bisogna lavorarci sopra, quindi non si fa niente. Ok. Senza sostanze, senza additive, niente. Tu usci imbriaco anche se non hai bevuto niente. Okay. Allora, dato che questa è più o meno tipo, almeno così pubblicamente, o almeno a livello mediatico, un'antepina galattica, mondiale, non lo so, cosmica, l'ottobre sta arrivando. Perché così si chiama, l'avevamo detto? Sì, no, non l'abbiamo detto. L'ottobre sta arrivando. Allora, ripetiamo, perché voi lo sentite per radio, però qualora doveste avere, anzi, avrete senz'altro intenzione di andare a vedere, perché se no per radio è mozza la cosa, abbiamo parlato di quanto, cioè, se noi parliamo a vanvera, quindi ve lo dovete andare, adesso lo sentite per radio, immediatamente dopo, tanto noi diremo cazzate immense dopo questa parte seria. Lo passiamo Leopoldo Mastelloni? No. Quindi avrete modo di abbassare la radio e andarvi a vedere, ripetiamo, dove se lo possono andare a cercare. Allora, sul sito ufficiale www.p38punkaltervista.org e sul blog p38punk.wordpress.com e sul canale YouTube, andate su YouTube e scrivete p38punk e lo trovate. L'ottobre sta arrivando, quindi lo mandiamo a Radio Onda Rossa, 25 o'clock, 87.9 della modulazione di frequenza, 23.14 minuti 56 secondi, dai. C'è la prima parte che non ve la posso leggere perché comunque spiega. Allora, di nuovo in diretta, quindi l'ottobre sta arrivando, P38 Punk è uscito il 26 di settembre 2018. Hai capito quasi niente del mio male, è per questo che tu vuoi tutto da vedere e da ascoltare. Non abbiamo forse l'abbiamo forse raccontato un po' così, descritto un pochino grossolanamente, però parlando di Ice, però insomma prima parlavi anche molto approfonditamente in realtà del montaggio scrupoloso che avevate fatto di questa, quindi andando proprio sequenza per sequenza a sincronizzare ogni singola parola, ogni singola parola. Sì, in realtà la cosa è stata di non voler assolutamente metterci all'interno dei piani sequenza, quindi abbiamo cercato di suddividere la coerenza narrativa e l'ordine di progressione con sequenze piccole, li mando all'inizio e alla fine in modo da non dover intervenire o dover intervenire in maniera minima all'interno del piano sequenza stesso, perché sarebbe stato un insulto a Eisenstein, cioè chi sono io per mettere un montaggio mio all'interno di un piano sequenza montato dall'inventore del montaggio. Cioè, mi sentivo anche a disagio solo all'idea, infatti. Quindi c'è il tentativo di intervenire il meno possibile, se non che di dover. Quanto dura ottobre? Ottobre dura circa un'ora. E quindi noi dover tradurre in tre minuti. Minuti. Tra l'altro, appunto, rispettando l'ordine sequenziale della storia, facendolo combaciare con le parole, abbiamo barato in 2-3 punti, ma è stato proprio un barare minimo. Un'esigenza tecnica imprescindibile. Sì, per mettere, in realtà sì, ma proprio di poco, per mettere perfettamente a tempo Lenin e farlo parlare, cioè, anche il gusto. D'altronde, ripeto, non sì, dovevate appunto, poi tra l'altro il pezzo durava quello, la registrazione durava quello, quindi poi in fase di montaggio bisogna inventare qualcosa per far quadrare il tutto. Tra l'altro, il montaggio fatto ad agosto a casa di un nostro amico Simone è senza aria condizionata, con un ventilatorino da computer e basta. Perfetto. Meno male che agosto non è stato l'agosto dell'altro anno, vedi, almeno su questo siete andati, perché penso l'agosto dell'altro anno con quelle temperature sarebbe stato ben più grave, insomma. Quest'anno si è difeso, però insomma. Senti, ma te volevo fare una domanda. Prego. La Padania fa parte della Comunità Europea? Sono domande a cui non so rispondere, onestamente, no, perché mi sto eclissando da questo pianeta. No, ma abbiamo quindi il ministro degli interni che è extracomunitario. È possibile, però sono cose di un altro mondo, diciamo. Noi siamo ormai andati su spazio 1999, spazio 1999, cose del futuro già passate, futuro passato, distopico. Allora, niente, siccome ce l'hanno chiesta non possiamo che mandarla. La vuoi annunciare te, dalla Repubblica Popolare Cinese, dalla grande Cina, Tang Dynasty. Ladies and gentlemen, The Internazionale. tranelli sotto ogni cielo ed ogni epoca. Cadete sempre negli stessi tranelli come dentro un'infinita replica. E ad ogni giro cadete nella rete per litigarvi poche briciole di pane. E grazie a voi che la storia si ripete, siete voi la coda e la bocca del cane. Fanno bene a trattarvi come bestie, se non replicate ed alzate la mano. Educati con pane e molestia, a seguire ciecamente un riflesso pavloviano. Nobili plebei, omofobi e gay, musicisti jazz, cover band e DJ, carnivori e vegani, eschimesi africani, asiatici europei, australiani e americani. Tutti a fanculo, tutti a fanculo, per me ve ne potete andare. Tutti a fanculo, tutti a fanculo, tutti a fanculo, per me ve ne potete andare. Tutti a fanculo, tutti a fanculo, tutti a fanculo, per me ve ne potete andare. Tutti a fanculo, tutti a fanculo, tutti a fanculo, per me ve ne potete andare. Tutti a fanculo. Va bene, qui erano un'altra di quelle cose che abbiamo ascoltato nella scorsa edizione mentre ci perdevamo in chiacchiere, ovviamente qui intorno al grande punto interrogativo, al grande mondo incognito e affascinante che è appunto il Siam, come avremmo detto ai tempi di Marco Polo. O l'impero di mezzo. O l'impero di mezzo. Nel frattempo mettiamo un'altra cosa perché non si può parlare senza base. E che non parte. Come bene in fretta è partita, poi la rimettiamo da capo per non far torto ovviamente alla furia. Ancora semine di collera e raccolti di consenso. Dicevamo, abbiamo ascoltato un'altra di quelle band che abbiamo ospitato qua in radio. Loro si chiamano Pax Armata e questa era Deja Vu. Le opinioni strumentali ad un potere o ad un altro. Nicole Neon si trova? No, non ce l'abbiamo stasera. Ma penso, io non so se hai notizie. No, io non ho più notizie da parte loro. Non lo so, è con secondo molto dispiacere. Con molto dispiacere, credo che siano un po' dispersi. Però è una mia opinione. Magari ci smentiscano. Ci smentiscano assolutamente. Smentitemi, anzi smentiteci. Normalmente in estate era un periodo in cui comunque io mi ci sentivo con loro, qualche cosetta si faceva, qualche volta sono andati anche a trovarli in situazioni così domestiche, vacanziere, eccetera, eccetera.

guerra a me stesso, al mostro del capitale, a questa folle corsa che chiamano progresso. Guerra al tempo, alle sveglie, al lavoro salariato, ad ogni vostro compromesso. Vivi una città salotto idealizzata per turisti, residenti deportati da quartieri dati in pasta a nuovi ricchi e falsi artisti. Guerra allo Stato, al denaro, al cemento armato, ad ogni sogno confezionato e definito. Fra l'oppresso e l'oppressore c'è un pugnale arrugginito che vi pianteremo in cuore. Guerra alla guerra, morte alla morte, morte al dolore. Guerra agli umani, ai modelli produttivi, ai piani quinquennali, alle macchine e ai motori. Guerra a noi stessi. Guerra al domani, la furia, 23:57 minuti primi. E dobbiamo dire che l'appello ha subito avuto un riscontro, perché tutto sommato poi quanti fai clock alla fine sono dal 2002 che sta qui il mercoledì notte più o meno a molestarvi delle belle altrimenti delle belle serate del mercoledì, insomma, che potrebbero passare davanti alla tele. Risaputo la famosa, cioè, febbre del mercoledì sera. Sì, sì, la febbre, sì, però la gente potrebbe tranquillamente passarsi a vedere le corse dei cavalli a Bisca, che ne so, che se può fare il mercoledì sera in televisione a guardare novelle o le serie TV, un sacco di cose. Invece che fanno poi? Sì, ascoltano 25 o'clock, e chi lo fa, chi gli vuole bene, insomma, a Radio Onda Rossa 25 o'clock, nella fattispecie il mercoledì sera. Quindi ci ha chiamato, aspetta un attimo, qui arrivano altre attraverso la multimedialità con queste apparecchiature assolutamente modernissime. Sì, ciao Davaris, felicitazioni Mao Fadong. Oh, grandissimo. Grande Danilo, che salutiamo. Grandissimo Danilo Fato, un altro amico e comunque intervistato, passato in questa fascia oraria, tra l'altro a mezzi con Elettrodo, che abbiamo ascoltato poc'anzi. Invece, proprio 4 minuti fa ci ha chiamato Enrico, chitarra di Palcoscenico, dicendo che sì, c'è un po' di subbuglio perché i palcoscenici appunto hanno di nuovo cambiato formazione, c'è un bassista nuovo, stanno riprovando, stanno mettendo, e abbiamo già cercato di combinare una serata con voi, insomma, così, tanto ne avevamo parlato. Si farà, non sappiamo bene quando, non sappiamo bene dove, non sappiamo bene, però si è farà. Così che funziona, anzi sono le cose migliori. Benissimo, allora lasciamo da parte la furia, invece c'è una cover che Marco dalla grande Cina per festeggiare sempre i 27 anni di Mente Filosofico, quindi dobbiamo sottostare a quella che è la volontà di Marco, ma lo facciamo molto volentieri perché in questo caso ci piace la cosa. E dicevi? Allora, avete presente Io sto bene dei CCCP? Ci abbiamo presente. Ho risposto io, ma è tutti gli ascoltatori e ascoltatrici della radio che hanno risposto, eh. Ci abbiamo presente. E guardate se siamo riusciti a trovare. Eccola, è parte, ci metto un po'. Ok, go in front. I'm gonna go to the bathroom. Problemi con guardie che incontrano I feel fine over CCCP in cinese. Va bene. Tutti sono onesti e tutti sono pari. Allora, una trasmissione stasera un po' stravolta. Non si sa bene rispetto però a quale standard. Cioè, ma io quando vengo qua è sempre un casino. Esatto. E questa è la cifra vincente di 25 O'Clock in queste occasioni. Ci piace perché anche da quel gusto di dilettantismo che comunque invece... Che fa un po' Leopoldo Mastelloni, diciamo. No, Leopoldo Mastelloni non te lo mando. Sono mesi che ripeto questa cosa. Non andrà a Leopoldo Mastelloni, benché sia persona, poi abbiamo un po' scoperto, un po' ci siamo ricordati, un po' già lo sapevamo. Di massimo rispetto, sua è la prima bestemmia in diretta Rai. Tra le altre cose, però, sai, lui magari dalle stesse interviste sue non avrebbe nemmeno amato essere ricordato per questo, perché era persona di altro spessore, un attore importante, eccetera eccetera, uno dei primi gay a essere abbastanza manifestamente gay, non dichiarato, perché non all'epoca in Rai non lo potevi dire, non lo potevi dire, ma lo potevi far capire, insomma la cosa si capiva. Quindi persona di tutto rispetto. In più c'ha questa cosa che per noi è un di più, appunto, della sì, prima sì, bestemmia. È come l'optional sulla ciliegina sulla torta, insomma, che ce lo fa rendere. Ma Leopoldo Mastelloni non te lo mando. Invece, quello che mandiamo, annuncialo te. Allora, a Simone che ci sta ascoltando, ci ha già mandato gli auguri. Da Formia, ovviamente. Da Formia, dalla palude pontina che ho lasciato un anno fa, dopo esserci stato 8 anni e mezzo. Gli mandiamo una canzone in cui mi ci trovo, perché condivido tutto l'amore per quel posto. Vai, Simone, è per te. 23:57 minuti primi. Allora, nel frattempo che una traccia di seguito all'altra, ci è venuto in mente Nero Orgasmo, anzi è venuto in mente a Marco che perché? Propone. Sì, vai. Perché ci abbiamo suonato a febbraio e sono delle persone fichissime. Ah beh, vengono da loro? Non lo sai? No, dovrebbe essere da su. Da su, da su però. Provincia di Napoli, no? Cosa? Torino mica sta. No, ok, certo. Comunque. Sì, no, non so se è proprio Torino. Beh, quella era una scena comunque attiva, Torino, poi c'era Milano. Non mi ricordo Nero Orgasmo, era proprio là, perché c'è Asti, Cuneo, tanti posti, insomma. Beh, però i poli erano Torino, certo, Milano, certo, Bologna. Certo. Dunque. Però prima di passare a Nero Orgasmo, P38 Punk, ritorniamo un attimo bomba, perché mo al solito si arriva alla data, al traguardo, alla pubblicazione eccetera, pure suspense, perché insomma Marco e i P38 si hanno dati da fare per creare pure la suspense rispetto a questa uscita di l'ottobre sta arrivando e mo adesso che facciamo? Qual è il prossimo scalino, il prossimo step? E mo un pezzo alla volta, può essere che famo un nuovo disco, sempre coi tempi nostri, quindi questo potrebbe essere il primo tassello, il secondo del... Non te lo posso dire, non, questo non lo sai. Non lo so e non lo voglio sapere. E forse non te lo voglio dire. Dato che invece avete ripreso un'attività live, come al solito, vi chiamano, insomma, feste, festicciole, croci rossine. Sì. E... cioè, no, supporto. Io guarda, dico una cosa in radio. Sì. Per carità, il benefit è sempre una cosa meravigliosa. Però una volta tanto, piuttosto che suonare per il compagno accoltellato, per lo sgombero, per la popolazione bombardata, tutte cose che dopo 27 anni faccio e continuo a fare e farò. Fa parte quasi del quotidiano. Però mi piacerebbe una volta suonare per una cosa bella, cioè siamo riusciti a. Fa riassume questo. Ah, va bene. Questo sarebbe veramente una cosa in 27 anni. Poi sì. Che non devo portiamo sfiga, Non devo dei soldi a nessuno, ma anzi voglio fare i soldi per comprare qualcosa, per esempio, no? Cioè, per noi. Sì, anche, ma per proprio per una cosa bella, suonare perché è successo qualcosa di buono. Bella, sì. Ma sì, per sì. Carità, continuo a fare la Croce Rossina, certo, mi piace certo. Pure. Una volta ogni tanto, diciamo, suoniamo in positivo. Sì. È un'esperienza che mi manca, proprio la scorsa settimana qua sotto, se non vale. Sì, però pure quello era un altro bene. Ma comunque invece... con chi? Perché erano. Con i compagni da Torpedos Roma, che sono dei ragazzi che fantastici, si danno da fare. Fantastici, li salutiamo. Anzi, dato che funziona stasera. Siamo in diretta, Torpedos, Giovanni, eccetera. Fatevi sentire, se ci siete battete un colpo. Ce ne fossero 100 come sì, loro. Ma tanto sicuramente staranno già pensando. Poi perché loro ne pensano una e ne fanno 10, al contrario di noi, insomma, che ci abbiamo una certa. Loro sono in grado ancora di fare questa cosa, ne pensano una e ne fanno 10 nel contempo. Quindi fateci sapere che cosa bolle in pentola, Torpedos, perché sicuramente avrete delle cose in progetto. Gli vogliamo bene, insomma, chi ha suonato oltre a voi? E allora, batta la memoria, comincia con l'età a vacillare. Aspetta, che te lo faccio vedere subito. Va bene, dai, intanto ci vogliamo un Nero Orgasmo, ne parliamo sì. Dopo, dai. Let's go. Allora, eccoci qua. Quindi parlavamo della... Di solito passiamo... Ecco, pure questa qui vedi, è un'inversione di senso, no? Di solito quando si viene in radio si parla de, come abbiamo chiesto, della prossima... Invece no, parliamo delle iniziative passate. Quindi... sì, parliamo. In realtà parliamo, poi... Con te viene a buttare braccio e quindi viene benissimo. Sì, sì, vabbè, ma... È una cosa divertentissima. Sì, vabbè, ma poi appunto è una cosa molto bella. Cioè, sono stato in altre radio, si metta seduta, ma non ti andavo da lei, no? Si metta seduto a sta distanza dal microfono. Cosa vuole che le chiedo? Questo è quello che parlavamo prima rispetto a... Già che mi dà del lei. La vocazione... lei, no? Lei che mi sta ascoltando. La vocazione punk e l'attitudine punk, no? Che abbiamo scoperto in realtà noi siamo stati talmente punk, ma non per vantarcene, perché non ce ne frega un cazzo delle etichette, cioè non, però siamo stati talmente punk che non ce ne siamo nemmeno accorti. Poi dopo, sentendo parlare, cioè vedendo che altri avevano scritto del punk, ci siamo riconosciuti dentro e dico, vabbè, ma erano i pischelli erano i pischelli di borgata, di periferia, gente che appunto sì, erano i coatti. Faceva piccoli coatti, che faceva piccoli impicci dentro il quartiere, che faceva sega a scuola, che faceva le risse, ma manco così, cioè poi sono appunto delle situazioni e delle costruzioni culturali pure successive, cioè non è che uno era contento di fare risse, se facevano perché eri attaccabrighe, perché però appunto non è che era proprio che la scelta piavi pure certe volte, non era sempre piacevole fare. Poi vabbè, ognuno si è visto come gli pare. Comunque, dicevamo, dai, la scorsa settimana siamo qui a memoria, promuovere. Qui l'Alzheimer mi dà tregua, c'erano Barbera e Champagne 40-127 Skinheads da Bologna e gli Affondo, grandi Barbera e Champagne. Devo dire che sono quelli che mi sono piaciuti. Ti sono piaciuti più, ma pure loro avevano pubblicato un annetto fa, quindi non penso che poi era un concerto, ma non c'era nulla da presentare. No, era un benefit. Benefit lo fai e basta. Lo fai perché se coincide che stai a presentare qualcosa, tanto meglio, insomma. Sì, no, perché ma il benefit, ecco, rilanciamo pure che cos'è. L'ottobre sta arrivando, lo stavate facendo già da live oppure ancora no? L'ottobre sta arrivando, l'abbiamo fatto una volta live quando abbiamo suonato con il Orgasmo, tra l'altro improvvisando, cioè non era neanche finito il pezzo, però fu una serata dove ci divertimmo tantissimo, poi pure un pubblico molto reattivo considerando Roma. Quindi che è uscita una città spontanea che... di farla, sì, insomma. Sì, cioè uscita spontanea, tra l'altro poi gli altri gruppi se la sono fatta prende bene, quindi quando un gruppo prende bene c'è l'effetto domino, certo, che prende bene a tutti, certo. In Erorgasmo sono stati all'altezza del loro nome sul palco. Torino abbiamo cercato Torino, almeno così è scritto, poi insomma stavamo criticando anche la veridicità in qualche trasmissione appunto di robe tipo Wikipedia, però prendiamo per buono quello che dice Wikipedia, dai. Vedi un po' se sta su Treccani pure. No, Treccani la metto insieme a Leopoldo Mastelloni. Nell'Orgasmo non c'è su Treccani. Treccani fa parte insieme a Leopoldo Mastelloni della blacklist. Lo sai che il 90% delle fonti dei Wikipedia è Treccani? Saranno pure sti Treccani, però fa mega no, piacciono, però, eh. Però avevano fatto tantissimi anni fa, adesso non so, poi andrebbe pure rifatta, dei ricercatori britannici, non so se di Cambridge, Oxford, l'università minore, avevano fatto il raffronto fra Wikipedia invece e l'enciclopedia Britannia su alcune voci campione, prese a campione, insomma facendo uno studio di tipo scientifico e trovando che Wikipedia cepiava di più. Questa era un po' la storia. Ma lì stanno in Inghilterra. Benché fosse autogestita, insomma, Wikipedia non è che c'ha un padrone, c'ha dei moderatori, semmai, insomma, delle persone che... Va bene. Ma lì stavano, ripeto, in Inghilterra, non è qua, stavano in Italia. Vabbè, però Wikipedia sta dappertutto, mica è una piattaforma internazionale. Quella italiana la fanno gli italiani. Quella italiana in italiano, diciamo, è più... Perché è fatta da italiani. È come la barzelletta famosa dell'inferno tedesco e l'inferno napoletano. Sì. Va bene. Non ve la raccontiamo ora la barzelletta. Nell'orgasmo andata, noi rimaniamo in Nord Italia, pure perché manca la scaletta sotto la nostra voce, cioè il background, la colonna sonora, quello che vi pare, quindi sentitevi un po' sta roba sempre dal nord, gente dell'Alta Italia, Kalashnikov, amici di Radio Onda Rossa, dai. Allora, dato che siamo passati da Torino di Nero Orgasmo a Milano dei Kalashnikov Collective, della nostra Valeria la voce, dato che la redazione non è fatta di due maschi come al solito, ma c'è anche una presenza femminile ben più sostanziosa probabilmente a livello culturale, come? Il mio avvocato. Esatto. Probabilmente anche di persone della nostra, benché noi critichiamo, almeno da parte di Marco, io non so, i gusti musicali della presenza, che però ci ha selezionato una cosa per questa scaletta, quindi si va con Bubby Gates, tornando. La dedichiamo alla gatta del mio avvocato. Alla gatta. Alla gatta del mio avvocato. Quindi tornando alla città sabauda e dedicata alla gatta dell'avvocato. Di Marco, avvocata di Marco, Way Your Life, Bull Brigade. E tra l'altro questa la, cioè all'altro che veramente ci fa due basta, non diciamo due al maschile e femminile, ovaie o comunque testicoli grandissimi, enormi, scusate. Diciamo gonadi, che è termine neutro. Il nostro buon Valerio, che aspettiamo pure lui come prossimo redattore di 25 O'Clock. Avevamo organizzato una serata di techno gabber da mandare qui in radio per un mercoledì sera con Elettrodo e il buon Valerio ci ha dato forfè, è una sola incredibile. Possiamo mettere Dottora Dansky, tutta sta roba, io ho bazzicata pure. Sì, possiamo mettere tutto, però Rotterdam Terrier Corps. Valerio ci ha dato buca e quindi la puntata è saltata, quindi Pendulum. Prodigy oppure Goetia. Esatto, sì. Quindi vabbè, Vale, ti aspettiamo. Bull Brigades per te, Way of Life e per la gatta dell'avvocato, dai. La Frolla si chiama. Vai, è YouTube che è lento. Di guai, oh, Way Your Life, quella strada ancora è noi. voce di chi più non c'è. Giornalisti e gente senza onore, forse adesso capirai perché. Pochi sono gli amici tuoi, fermi ancora nel tuo cuore. Giovane incazzato e sempre in cerca di guai. Power on die. Quella strada ancora è noi, senza un posto dove cazzo stare, aspettando un giorno che non arrivo mai. Power on die. Quante volte ancora noi. Birre ancora e quante notti vedrai. Away of life. Giovane incazzato e sempre in cerca di guai. Away of life. Aspettando un giorno che non arrivo mai. Giovane incazzato e sempre in cerca di guai. Away of life. Quella strada ancora è noi, senza un posto dove cazzo stare, aspettando un giorno che non arrivo mai. Away of life. Quante volte ancora noi. Chiudete il becco! Se avete paura di farvi la bua, non giocate a calcio! Tornatevene a casa dalla mamma, se non sapete rischiare neanche le vostre gambe per il calcio! Le partite si vincono attaccando! Chiunque si trovi sulla mia strada se la vedrà con me! Sono Mark Lenders, la Muppet è la mia squadra, ed è così che ci ho preso! Lasciali Clifford, ora sono calmo. E dicevamo che con YouTube c'hai il mondo, perché una cosa ti viene appresso all'altra e potessi pure continuare per tutta la notte, però i messaggi vengono una cagata. È vero, tant'è vero che non parte quello che doveva partire. Vediamo se ce la fa adesso, e abbiamo dovuto anche improvvisare. Vedi che parte. Lo mandiamo da capo dopo Serca, quindi, che vengono dalla Sardegna e che comunque ci interessa sempre di promuovere, perché sono veramente molto fighi. Sappiamo che Paizo e il Fongis, i cuginetti di Apostasia del giovedì sera. Apostasia che penso fra un paio di settimane, una settimana, la prossima, quella dopo ancora, non sappiamo, riprenderà come ogni anno. Bisogna avere un po' di pazienza con loro, perché comunque hanno dei tempi molto da Apostasia. Come noi, filosovietici, hanno dei tempi filosovietici. Sì, sì, anche se diciamo loro non credo che si definirebbero filosovietici, però i tempi coincidono, assolutamente dal punto di vista dei tempi coincidono. Presentarono anche loro, invece, sempre per quanto avevi selezionato te, Lamento di una spacciata degli Schiantos, ricordando quel gran genio del mio amico. No, che era, sì, l'abbiamo intervistato anche un paio di volte, il nostro Fedingo qua alla radio, Roberto Friccantoni, una di quelle cose che veramente ci è mancata perché ci è mancata la sua enorme genialità e capacità di sagrare assolutamente tutto, da quando era di Radio Alice in quella Bologna 77, capitale, vera capitale del punk italiano 77, di cui loro, gli Schiantos, furono esponenti, che non si chiamavano punk, si chiamavano rock demenziale, perché allora in Italia ancora la parola punk non suonava molto bene, non era nello slang. Però l'attack punk era di Bologna, mi sembra. Sì. No, in realtà sì, appunto, diciamo prima, il triangolo Bologna-Milano-Torino, insomma, era un po' qui a Roma, alzo, che arriviamo un po' più tardi. Però Bologna era la scena più figa, secondo me, dopo tutto, insomma, quella più autironica, soprattutto quello che ci interessa. Quindi da capo Lamento di uno spacciatore, gli Schiantos, Roberto Friccantoni alla voce. Eccoli qui, parlano forte, lo sai, cominciano al mattino e poi mi sbattono le porte e gli dico: zitti, non fate del casino, i vicini mi stanno troppo addosso. C'è chi arriva senza grana, crediti, no, davvero io non posso, e va bene, mandatemi in rovina, domani passo, vi mollo tutti, chiudo le storie, voi siete matti, domani parto, vi mollo tutti, chiudo le storie, voi siete matti. Prima o poi verranno ad arrestarmi, sì, qualcuno ha chiesto informazioni, stanno lì tutti a sputtanarmi, la piazza è piena di coglioni, così non posso andare avanti, no, passo i miei giorni in un inferno, mi stanno cascando anche i denti, devo scappare prima dell'inverno, domani parto, fino allo tutti, chiudo le storie, voi siete matti, domani parto, mollo tutti, chiudo le storie, fascista basta. Allora, mezzanotte e 36, l'unica cosa su cui siamo andati d'accordo stasera, assolutamente in sintonia totale, era dice, vabbè, vogliamo chiudere. Chiudiamo, perché è l'ora delle streghe, tra l'altro. E per... quindi, vabbè, raccontiamo un po' quello che abbiamo mandato, se ve lo ricordate, perché ho chiuso tutti i task. No, io sono storico, come faccio a ricordarmelo? sì, no, storico, beh, sapete che insomma oggi abbiamo definito essere eufemismo per... rappresentare decrepito, il vecchio rincoglionito, diversamente giovane, come vogliamo dire. Allora, no, abbiamo mandato Disciplinata. Disciplinata è Mondo Nuovo, mondo che tra l'altro nuovo. Diciamo, Disciplinata non erano fascisti. No, cioè, chi lo dice di un'ignoranza, anche perché non sarebbero passati qui per sì, no, è di un'ignoranza abissale. Poi abbiamo mandato, vabbè, gli Schiantos, Lamento di uno spacciatore, poi abbiamo mandato quelli Vagatta tua, chi erano? No, Bull Brigade. Poi abbiamo mandato Godzilla e dei bambini con i baffi. E poi i CCCP in versione cinese. CCCP in versione cinese. Da uno di cui il nome non riusciamo a pronunciare. CCCP in versione invece vera, naturale. E vabbè, insomma, ci siamo guadagnati la stossa pure stasera, penso. Porca miseria, e chiudiamo con una canzone. Mi fatiche, sono quasi stati. Chiudiamo. Diciamo che l'ora delle streghe, questa è una mia scelta. 6 minuti e 30 di pezzo. 1984 è proprio da mezzanotte e mezza. Sono i Cindy Talk, The Ghost Never Smiles. Io c'ho il vinile di questo. No, ma dovevi dire che stiamo trasmettendo il vinile. Dovevi essere falso. Perché stiamo trasmettendo l'MC. Che è l'MC? Musica assetta. Ah, musica assetta. Il capitalismo è falso, capito? Quindi se devi di bufale, devi di bugie. Lavoro. Un milione di posti di lavoro. Sì, ma questa. Cioè, ma ve ne do 5 di milioni di posti di lavoro. Ma qualsiasi cosa, qualsiasi anche piccola adesso. Anzi, ve faccio via lo stipendio senza lavorare. E poi quando succede una cosa, questo è per merito mio, ho fatto io. Subito rivendicasse cose positive e accollare la merda delle colpe agli altri. Ma guarda, non so, pochi se lo ricordano, ma Bondi quando era ministro della cultura. Ma non era un comico Bondi? È il mio comico preferito. Quando c'è fu il crollo della Casa dei Gladiatori a Pompei, tu lo ricordi? Sì. Lui se ne uscì con una cosa, io sono rimasto davanti alla televisione e ho detto, no, questo merita di stare qua, perché disse... logica aristotelica stringente, il crollo della Casa dei Gladiatori non è colpa mia, fosse stata colpa mia mi sarei dimesso, non mi sono dimesso, quindi non è colpa mia. La spiegazione ontologica dell'esistenza, cioè, il sillogismo di una... Allora, mentre vanno Soulfire Union dal Giappone, questa era lo Sacrifice, un lavoro di tanti tanti anni fa, non sappiamo di che anno esattamente. 1993 per l'esattezza, e più o meno noi abbiamo comprato il disco in quell'epoca. La benedizione, c'è la benedizione dalla palude, stile Leopoldo Mastelloni. Sì, Leopoldo Mastelloni, da Simone Lucciola dei Blood 77, Gioventù Bruciata, La Mette, più ne ha più ne metta. Sì, appunto, La Mette, un pezzo di storia come Leopoldo Mastelloni. Anzi, mi aspetto una cover del mio Slip non Pam verrà. Pam. No, no. Sto parlando con Simone, okay. Non con te. Okay. Che Simone ha la sensibilità di capire Leopoldo Mastelloni. Leopoldo Mastelloni è bannato. Però se ci benedice con la benedizione del Signore Simone, diciamo che possiamo salutare. Sì, diciamo che possiamo salutare, non prima però. Vi attengo perché dopo i giapponesi, e io volevo mandare. C'è Leopoldo Mastelloni? No. E te l'avevo fatto anche toccare con mano il disco. Certo. Il mio Slip fa pam pam. No. Si tratta invece di una produzione 1974. Bella. Che sì. Viene da una terra che ha 54.000 abitanti oggi, cioè quanto poco meno di 100 celle strettamente intesa. Che cioè i vichinghi chiamarono Grunland. I vichinghi li chiamavano Grunland, loro sono invece popolazioni Inuit a tutti gli effetti. Un disco del 1974, dicevamo, di una band, di un gruppo che era anche un collettivo politico in realtà, che si chiamava Sumé, e che si unì poi alle altre rivendicazioni delle popolazioni Inuit presenti al di là del... Per chi non lo sapesse, diciamo, gli Inuit sono gli algonchini che stanno verso tutti il nord, tutti sopra il circolo polare artico, quelle popolazioni di origine mongolica che in varie migrazioni durate per migliaia di anni si sono insediate nelle zone. Ci stanno delle frasi bellissime lette anche in un museo rispetto a quella che era la vita dei clan, delle tribù, degli Inuit. E più teorie dicono che siano proprio passati dallo stretto di Bering, ghiacciato durante l'ultima glaciazione. L'ultima glaciazione, ma non solo, ma appunto questa frase diceva: non pensate, cioè si ha l'idea di popolazioni isolate senza storia. In realtà, attraverso una tradizione orale molto importante in queste popolazioni, si aveva un profondo senso della storia, della propria provenienza, un tessuto sociale, molto connesso, e dei contatti, esatto, benché fossero popolazioni nomadiche e anche molto isolate. Anzi, forse è proprio abbiamo per questo noi un'idea razzistica, assolutamente, come occidentali, etnocentrica, il termine esatto è etnocentrica, però che mentre etnocentrica è un termine un pochino più neutro, un pochino meno aggressivo nei nostri, e comunque che implica una autocritica razzista, mi piace un sacco, cioè riconoscere il nostro razzismo oppure la nostra presupposta superiorità non si sa rispetto a quali canoni, a quali metri di misura, perché i metri di misura ce li decidiamo noi stessi. Noi ovviamente, noi rifugiamo a questa logica, per cui ci piace mandare appunto la musica dei posti più lontani da noi, ma poi estremamente vicini, se come si voglia dice di fare rivoluzioni. Su me, quindi, questa formazione degli anni 70 criollandese, che aveva fatto un disco che si chiamava, e documentario tra l'altro, sulla condizione e sulla vita e sulla storia degli Inuit, che si chiamava The Sound of a Revolution. Non possiamo che unirci anche a questa rivoluzione. E concludo dicendo: infinite diversità, infinite combinazioni. Benissimo. Salutiamo tutte e tutti coloro che sono stati, che sono costretti e che ci hanno ascoltato, costretti da condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari. Padania, i famigerati centri di detenzione per quella forza lavoro che altro non è che forza lavoro, che sono i fratelli, i compagni, le compagne, gli oppressi migranti, di tutto il mondo, e oppressi in quanto, ancor più oppressi in quanto migranti. Bella a tutti, ci risentiamo, credo, mercoledì prossimo, perché io ho ancora qualche metro cubo di legna da spaccare, non so se ce la facciamo a finire per la prossima settimana. Ti vengo a dare una mano. Ma no, guarda, te spacchi la schiena, rifuggi il lavoro, ormai me lo so accollato io. Bella a tutti, a mezzanotte 49 minuti dopo la mezzanotte, dai. Nagwakas maninagwakit pamnarikaingar pamnarikangirukaingar kanaya ay kanaya ay kanaya ya kanaya kanaya Hey, you. Radical Minds.